corte vicino, cammina, cammino, superbo pensiero. Gioito e poi bramato novellamente, e ancor dicesti all'attimo fuggente: corre, stati. Della dea, sì, ma il reale fu dolore.